Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuova settimana insieme all'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, insieme al suo presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao amico e un saluto a tutti gli ascoltatori. Non poteva andarci bene come la settimana scorsa con due vicende a lieto fine. Partiamo infatti con una storia che ha toccato una signora mestrina che ha subito un danno piuttosto rilevante, dobbiamo dire, cioè si è trovata senza casa a causa di un decreto ingiuntivo. Partiamo dall'inizio però, da quando questa signora e il marito si sono separati. Sì, come ha detto Mico, parliamo di decreti ingiuntivi e la storia che andremo a raccontare a nostro avviso diventa significativa, perché troppe volte abbiamo scoperto le persone, quando ricevono appunto questi decreti ingiuntivi, fanno un po' finta di niente, tendono a respingerli, e allora nell'occasione andiamo un pochino a spiegare cos'è il decreto ingiuntivo, ma anche a raccontare l'accaduto che è capitato a questa signora, che sostanzialmente faceva e si è trovata a fare da garante all'ex marito per una finanziaria, e dopodiché il marito, non onorando più i debiti, si è trovata vittima di una società di recupero crediti che alla fine, per recuperare i propri soldi, ha pensato bene di mandare un decreto ingiuntivo, con la conseguenza poi che andremo a raccontare. Appunto, si è vista recapitare questa signora un decreto ingiuntivo, il quale però non ha dato il peso che pensava, oppure pensava che comunque il suo stato appunto di donna sola con i figli a carico potesse in qualche modo salvaguardarla. Certo, come molte persone quando ricevono certe buste color verde tendono a respingerle facendo finta di non trovarsi a casa o lasciandole in posta, perché poi così comunque se ne ritornano al mittente, la signora ha agito allo stesso modo e di conseguenza questa finanziaria che avanzava questi soldi di cui non erano state onorate gli importi, le scadenze, ha pensato di rivolgersi alla signora. Come ha fatto? Soprattutto dopo che la società del Cupo Crediti in vano non ha portato a casa il risultato, hanno pensato di fare un bel decreto ingiuntivo, la quale la signora non ha dato seguito a questo decreto ingiuntivo, cioè lo ha ignorato, e decorsi i termini, diventando esecutivo, questa signora adesso si è trovata praticamente in strada. In strada e soprattutto, anche se ha dei minori, non potendo fare nulla, non potendosi opporre, in quanto i termini non danno più modo all'ufficio legale dell'Adico, in questo caso, poter fare qualcosa di concreto per poter aiutare. Il decreto aggiuntivo era fondato chiaramente perché la signora faceva da garante per il marito, che a sua volta si è dimostrato insolvente, e chiaramente si risale la scala e si arriva al garante. Quanto tempo avrebbe avuto la signora se avesse aperto la busta e seguito correttamente la procedura? Allora, innanzitutto l'Adico ha istituito un apposito sportello debiti e crediti anche per dare questo tipo di assistenza. Normalmente quando si riceve un decreto ingiuntivo si ha 40 giorni di tempo per opporsi. Chiaramente in questi 40 giorni ci si può opporre in due modi, o tramite giudice con un legale, oppure trovare una soluzione bonaria e farlo, come dire, decadere. Certamente non dando seguito, quindi non ricevendo la cartella notificata, ma respingendola, non si può rientrare nei termini dei 40 giorni che la legge prevede per poter fare qualcosa, e automaticamente il decreto ingiuntivo diventa esecutivo. In questo caso, diventando esecutivo, quelle che sono le possibilità che un cittadino ha per una qualsiasi vicenda, che non potrebbe essere questa, ma magari altre simili, come una cartella pazza o un bollo non pagato, oppure una richiesta di pagamento per un debito anche di altro genere che non sia strettamente legato a una finanziaria o al fisco, non ti dà più molti margini. La signora si è trovata a venire all'Adico con le valigie in mano, ma a questo punto veramente poco si è potuto fare per poterla realmente aiutare. Quindi questa finanziaria, nel caso specifico, si è di fatto impossessata della casa che era di proprietà della signora, comunque le era rimasta in uso. Sì, per essere più semplice nella spiegazione, mi ricordo un po' come quando si prende una multa, no? Tu hai 30 giorni di tempo quando te la notificano per rivolgerti al giudice, 60 è prefetto. Se decorrono questi termini e tu dopo un anno vuoi fare il ricorso perché nel frattempo è lievitata, è raddoppiata, ti è arrivata, ti sono arrivate altre sanzioni amministrative, non puoi fare niente. Ecco, nel corso di 40 giorni non si può proprio di fatto in maniera concreta fare una opposizione. Certamente nel caso della signora che aveva una finanziaria abbastanza importante, la società Recupero Crediti ha pensato bene di fare i valzer sulla casa e di conseguenza, essendo in una casa comprata con il coniuge e anche se separata comunque lei ci viveva, in questo punto la conseguenza è stata che è stata pignorata la casa. Dunque una vicenda purtroppo che può essere esemplare per molti, seguite, magari può essere fastidioso, rognoso seguire tutte queste procedure, però ci si può trovare in guai davvero più grossi. Che informazioni avete riguardo a questa signora e i suoi bambini? Sono riusciti comunque a trovare una sistemazione almeno provvisoria? Purtroppo le sistemazioni provvisorie poi diventano sempre un aiuto con i parenti, con i familiari più stretti, ma certamente al di là di quello che possono essere tentativi fatti con il sindaco, con i servizi sociali del proprio comune a trovare un alloggio, eccetera, certamente quello che è un iter che purtroppo quando diventa esecutiva questa cosa non si può più fare molto. Certamente è una vicenda che come molte altre che l'Adico capita di trattare colpisce sul cuore tutti, ma certo in questo caso è bene, come hai detto tu, ricordarsi sempre che perché si possa e anche l'Adico possa aiutare le famiglie in queste situazioni debbono dar modo a noi di avere gli strumenti adatti e non certamente ignorando le comunicazioni o respingendo le cartelle o le raccomandate si può aiutare anche chi vuole darti una mano e poter fare il suo lavoro. E aiutare innanzitutto se stessi, in questo caso la propria famiglia. Tra un paio di giorni toccheremo un argomento che rimane in ambito familiare, una situazione sempre più diffusa e sempre più necessaria. Parleremo della figura dell'amministratore di sostegno. Associazione Difesa Consumatori.it per ulteriori approfondimenti. Grazie al presidente Carlo Garofolini, buon proseguimento. Grazie a te, Nico, e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci. In collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.